Che gioia, possiamo accomodarci. È una gioia poter essere qui e celebrare un Gesù che sappiamo essere vivo. E lo sappiamo non per una narrazione solo biblica, nella quale crediamo al 100%, ma noi crediamo in un Gesù vivo perché sperimentiamo la vita di Gesù. Amen. Quanti possono dirlo con me? Io sperimento la vita di Gesù. Io posso dire che Gesù è vivo perché Lui è vivo nella mia vita. Amen. Posso vedere le vostre mani, entrambe? Amen, è così, Lui è vivo. E vogliamo ringraziare il Team Lode, che bel momento di adorazione. Che bello essere qui riuniti e cantare a Lui. E sapere che Lui è nel nostro mezzo. E io voglio partire con un verso che ci è caro in modo particolare ai ragazzi del Team Power che hanno fatto il ritiro. Giuseppe, ci sei? Giuseppe Quintava, sei già salito, quanto sei veloce. Cosa dice 1 Giovanni al capitolo 4, versetto 10? In questo è l'amore. È bello questo botte risposta da tu lassù, lo vedete Giuseppe lassù in regia? Ti sto dando qualche secondo prezioso per fare mente locale. In questo è l'amore. Giuseppe, in questo è l'amore, la grazia. C'è qualcuno che ti può suggerire o non hai proprio nessun aiuto dai tuoi compagni di servizio? Qualcuno lo proietta per dargli proprio un aiuto. Lo leggiamo insieme, 1 Giovanni 4 dal versetto 9 dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. In questo è l'amore di Dio, in questo è l'amore per eccellenza, questa è la definizione di amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. E ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Amen. Vogliamo dichiararlo insieme dal versetto 10? Ditelo con me. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio per i nostri peccati. Per i miei peccati, per i tuoi peccati, per le tue colpe, per le mie colpe, per le tue macchie, per le mie macchie, per le mie, i miei errori fatti in ribellione nei confronti del Creatore. Questo è l'amore per eccellenza, il gesto d'amore per eccellenza è il sacrificio di Gesù Cristo ed è importante, opportuno che oggi, in una giornata nella quale si celebra la resurrezione di Cristo, noi comprendiamo qual è l'essenza di questo sacrificio, di questa morte, di questa resurrezione, di questa croce che è proiettata alle mie spalle. Gesù è morto per amore, perché ti ama, tu sei amato. E oggi avevo tanti input per il messaggio di oggi, avrei voluto parlare di tante cose, avrei voluto parlare di sacrificio, un termine non molto comodo. Però Gesù si è sacrificato perché l'amore si sacrifica. Avrei voluto parlare di sofferenze e della sofferenza che Gesù ha patito su quella croce, che rende Lui il Salvatore per eccellenza perché Lui può comprenderci. Lui ha sofferto più di noi, molto più di noi in questo mondo. Lui comprende la tua sofferenza. Avrei parlato di 3 S, sacrificio, sofferenza e sottomissione. Termini scomodi, il fatto che Gesù è stato sottomesso a Dio e ha rinunciato alla sua volontà, pregando e dicendo al Padre: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E questo ha portato Cristo Gesù in croce. E noi abbiamo da imparare la sottomissione. Quanto è scomoda la sottomissione, quanto è scomodo e inusuale questo termine. Però più pregavo e più dicevo: Signore, Signore, aiutami a predicare sul sacrificio, aiutami a predicare sulla sottomissione, aiutami a predicare sulla sofferenza. E il Signore mi ha aiutato talmente tanto che ha detto: non predicare su queste cose, predica sull'amore. Perché vedete, al di sopra di ogni altra cosa, se c'è una cosa che la croce ci ricorda, è che noi siamo amati. Se c'è una cosa che il sacrificio di Gesù ci ricorda questa mattina, è che tu sei amato, tu sei amata da Dio, di un amore incondizionato, e questo amore non parte da te. L'amore di Dio, il sacrificio di Gesù, non è arrivato quando l'umanità ha riconosciuto le proprie colpe. Non è arrivato il sacrificio di Gesù, Gesù non si è sacrificato nel momento in cui ha visto un popolo pentito. Ha osservato l'umanità, ha visto noi creature ribelle, ci ha visto piangere, pentirci dei nostri peccati, della nostra ribellione, e ha detto: no, per questo popolo così amorevole, così che ha compreso l'errore commesso, l'avermi voltato le spalle, questo suscita in me un gesto di amore, ed è così che si è sacrificato Gesù. No, non è accaduto per questo. Non è accaduto perché un mondo ribelle si è pentito e tu e io ci siamo ravveduti. Il nostro ravvedimento non è stato il motivo che ha portato Gesù sulla croce. Piuttosto, lui è andato sulla croce e attraverso questo gesto di amore tu ti sei ravveduto. È il contrario. Gesù ha sacrificato se stesso, e questo è il gesto di amore più disarmante e più straordinario della storia dell'umanità, perché è il gesto dell'amore di un creatore che si sacrifica per le proprie creature ribelle e che hanno voltato le loro spalle al loro Dio creatore. Questo è l'amore. In questo è l'amore. Non che tu hai amato Dio, ma Lui ha amato te. E sai, in questo c'è speranza, perché questa mattina, a prescindere dai meriti che ti attribuisci o alle colpe che ti attribuisci, Lui ti ama. Puoi attribuirti dei meriti per essere amato da Dio e non saranno mai abbastanza. Lui ti ama a prescindere. E puoi attribuirti tante colpe questa mattina, sentirti così sporco e indegno davanti a Dio, nel lodare a Lui, a cantare a Lui, eppure Dio ti dice: io ti amo, perché l'amore parte da me. Non è una bellissima notizia? Abbiamo un banner appeso qui, fuori a questo edificio. È il secondo banner e dice: tu sei amato. A me piace l'idea che così tante persone, centinaia, forse migliaia di persone, hanno letto quel cartello, un cartello alto, che si vede a distanza, e dice: tu sei amato. Però un conto è leggere che tu sei amato, un conto è che io ti dica che tu sei amato da Dio, un altro conto è sentire quell'amore e percepire l'amore di Dio. E la mia preghiera è che tutte quelle persone che leggono quel cartello e passano sotto quella scritta ogni giorno possano non solo saperlo a livello teorico perché qualcuno glielo sta dicendo, ma la mia preghiera è che loro possano vivere e percepire l'amore di Dio. La mia preghiera per questo incontro, per questa mattina, che avremo tra l'altro anche la cena del Signore, è che tu e io possiamo percepire la profondità, la grandezza, l'altezza, la larghezza dell'amore di Cristo Gesù, perché Lui ti ama. Lui ti ama più di ogni parola che io posso spendere. Lui ti ama. Lui è sceso dal trono celeste, si è spogliato di tutta la maestà e tutta la gloria che aveva nei cieli, si è fatto uomo, si è umiliato, è arrivato a toccare il fondo per te, per amarti. Ha lavato i piedi, come abbiamo cantato, ha sacrificato il suo tempo, le sue energie, la sua stessa vita, ha sofferto, è stato schernito, è stato torturato, appeso ad una croce, è stato preso in giro, e lo ha fatto perché? Perché amava ciascuno di noi, e non ha amato coloro che lo hanno difeso, perché nessuno lo ha difeso. e nessuno si è schierato a suo favore affinché non fosse crocifisso. Lui si è lasciato crocifiggere perché lui ha amato i suoi giustizieri, le persone che lo hanno giudicato, le persone che lo hanno accusato, le persone che lo hanno schernito e che lo hanno ammazzato. E sapete chi erano queste persone? Non i soldati romani, non i farisei e gli ebrei. Io e tu, perché sono le mie colpe e i miei peccati che hanno portato a questo gesto estremo. Ascoltatemi bene, se ci fosse stata un'altra via, Dio l'avrebbe intrapresa. Alcuni dicono ci sono molte vie per arrivare a Dio, se ce ne fossero state altre, se ce ne fossero altre, Dio sarebbe crudele. Perché porterebbe il suo figlio a tale sofferenza se c'è un'altra via per ereditare la vita eterna? L'unica via è il sacrificio propiziatorio di Cristo Gesù. L'unico uomo che ha camminato e ha vissuto su questa terra senza commettere neanche un errore, neanche un peccato e senza mai ribellarsi al Padre. Ed è lui, solo lui, che poteva addossarsi le colpe, prendere le colpe mie, le colpe tue, le tue mancanze, la tua ribellione, il tuo essere autonomo rispetto al tuo creatore, il tuo mentire, il tuo far male, il tuo oziare, il tuo fornicare, il tuo adulterare, ogni tua avarizia, ogni tua gelosia, ogni contesa e ogni peccato che tu abbia commesso. Gesù non l'ha commesso, ma lui si è sacrificato per te, affinché tu oggi potessi ricevere il perdono e ottenere una via che conduce al Padre. Questo è amore. Questo è amore. Questo è amore incondizionato. Questo è amore di grazia. Questo è amore indescrivibile. Questo è l'amore del Padre. E noi abbiamo bisogno di amore. Viviamo in un mondo che è senza amore. E ognuno di noi soffre per mancanza di amore. La mancanza di amore è la sofferenza maggiore dell'uomo. Sapete quale può essere una valida descrizione dell'inferno? Assenza di amore. Questo è l'inferno. È l'assenza totale di Dio. Dovunque tu vedi amore, tu stai vedendo Dio, perché Dio è amore. Lui non ama solamente, lui è l'essenza dell'amore. Lui è l'amore in carne ed ossa. Lui ama perché la sua natura è del suo attributo che lo definisce. E noi abbiamo bisogno di amore. L'amore probabilmente ti è mancato e forse oggi soffri perché ti è mancato dall'infanzia, per un genitore che è venuto meno, per una separazione, per un divorzio. Hai un vuoto interiore che è la mancanza di amore e di affetto che avresti voluto dai tuoi genitori. Forse oggi ti ritrovi che hai mancanza di amore perché l'amore ti è stato negato. L'amore ti è stato negato perché eri l'ultimo dei figli o eri l'ultimo dei compagni, l'ultimo ad essere simpatico, l'ultimo ad essere bello, l'ultimo ad essere piacevole. Forse ti è stato negato quest'amore perché eri ultimo e sei stato rigettato, addirittura bullizzato, e qualcuno ti ha ferito e ti ha fatto male, e quelle persone che avrebbero dovuto accoglierti, forse come hanno accolto i tuoi compagni o come stanno accogliendo i tuoi compagni, non stanno accogliendo te, e ti senti rigettato e c'è mancanza di amore nella tua vita e c'è un vuoto interiore e c'è una ferita nell'anima. Forse l'amore ti è mancato, forse ti è stato negato, forse è stato addirittura violato da parte di chi ti aspettavi di poter avere maggiore amore. Sei stato tradito o tradita, ti è stato voltato le spalle, ti sono state voltate le spalle da parte di quel compagno, di quell'amico, di quella persona che per tanti anni ti era fedele, era un confidente, era una persona di cui ti fidavi, ti ha ferito, ti ha abbandonato, ti ha tradito. Forse il tuo amore non solo è stato mancante, negato o violato, ma tu non sai che cos'è amore, perché sei stato odiato, perché qualcuno ti ha detto parole che hanno definito chi eri e ti hanno portato a una condizione di amarezza e di isolamento, perché quando siamo feriti ci isoliamo. È proprio come nelle ferite fisiche. E quando ti fai male in un punto, cerchi di proteggerlo e non apri, non dai la possibilità a chi può guarirlo di accedere a quella ferita. E si crea così un vortice, una spirale viziosa, dove ferito cominci a chiuderti, isolarti e ferire. E quindi da vittima diventi carnefice. Possiamo ammetterlo, possiamo essere sinceri. Non solo non siamo stati amati, ma probabilmente noi non abbiamo amato. Forse non solo siamo stati violati nel nostro amore, forse noi abbiamo violato l'amore che qualcuno si aspettava attorno a noi. Accade tutti i giorni. Accade volontariamente e accade anche involontariamente. Feriamo quando lo sappiamo che stiamo ferendo, perché c'è rabbia dentro di noi, perché c'è amarezza dentro di noi, e feriamo anche quando non lo sappiamo e non siamo intenzionali. Viviamo in questa società dove l'amore è mancante e dove c'è un'avidità di amore, di affetto, e la si cerca ovunque, perché c'è da recuperare quell'amore che non abbiamo avuto, e lo recuperiamo in tutti i modi. E se siamo stati rigettati, allora cerchiamo di essere apprezzati, stimati, in tutti i modi possibili. E cerchiamo di farci belli e cerchiamo di sforzarci di apparire bene. E viviamo in una società che è la società dell'apparenza, perché almeno sui social posso essere chi tanto vorrei essere, quella persona apprezzata, e andiamo dietro questi like, e viviamo una vita isolata da un punto di vista reale, ma molto attiva da un punto di vista virtuale, perché lì qualcuno apparentemente ci sta apprezzando. E sui social ci sfoghiamo delle nostre amarezze, dei nostri rancori, delle nostre critiche, perché speriamo che qualcuno possa raccogliere il nostro grido disperato e unirsi a noi nella disperazione per sentirci compresi da qualcuno. C'è una carenza di amore nella nostra società. C'è una carenza e una sofferenza per mancanza di amore tutto attorno a noi. I matrimoni si rompono, le famiglie si disperdono. Gli affetti più sinceri e più profondi e più intimi non funzionano. Perché? Perché non sappiamo amare, perché nessuno ci ha mostrato come amare. Siamo disposti a svendere il nostro corpo. In una fase molto delicata della vita dell'uomo, che è l'adolescenza, è quel periodo di vita dove l'affetto dei tuoi genitori non conta poi più così tanto. Ciò che conta è l'affetto ed è l'amore dei tuoi coetanei. E allora, se posso essere apprezzato dai miei coetanei, farò di tutto. Tra le scelte peggiori che io ho potuto fare, le posso ricordare proprio in questa finestra temporale, che era l'adolescenza, dove ad ogni costo volevo piacere a chi aveva la mia stessa età. Ad ogni costo dovevo essere qualcuno per l'altro, per essere accettato e apprezzato. E quindi vediamo tra di noi, nella società che ci circonda, giovani, adolescenti che si perdono, si svendono il proprio corpo, svendono la propria vita, si donano alle braccia disperatamente del primo che ha da offrire loro un po' di affetto, un po' di amore. amiamo i cani. Li adoriamo i cani. Perché loro sì che sanno amare. Loro sì che ci sanno offrire un amore incondizionato, vero? Forse anche perché parlano molto poco. Non parlano proprio. E non ho nulla contro i cani. Amo i cani. Ma non è triste quando vedi persone che investono tempo, denaro, energie e ogni parte del loro tempo libero per dei cani, degli animali, quando potrebbero magari dedicare quel tempo, quei soldi, per bambini, per vittime di abusi, per persone che soffrono, perché la sofferenza ci fa paura, perché l'abbiamo subita, perché abbiamo carenza di amore e quindi non abbiamo le forze per amare. Abbiamo le forze solo per ricevere. E un cane ha solo da darti. Nella lettura di oggi, Galati 2, per chi sta cominciando con tutta la Chiesa la lettura di questa bellissima epistola, proprio oggi noi leggiamo in Galati 2, versetto 19, che l'Apostolo Paolo dice: la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio. E poi aggiunge: il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sapete cosa mi piace di questi versi, di queste parole? Che l'Apostolo Paolo non sta facendo il teologo qui, non sta presentando l'amore di Dio per l'universo, per l'umanità, non sta presentando la dottrina del sacrificio di Cristo sulla croce per la salvezza, quale sacrificio propiziatorio per tutti coloro che ricevono questa possibilità di entrare nell'eternità attraverso il perdono dei peccati. No, qui l'Apostolo Paolo dice: questa salvezza è mia, questo amore è per tutti, ma è per me, e diventa personale, il quale mi ha amato. E io mi chiedo stamattina, puoi dire: Gesù mi ama, mi sento amato, mi sento colmato di ogni mancanza, e l'amore che tanto desidero non lo devo più cercare attorno a me, non lo devo esasperatamente avere avidità affinché gli altri me lo diano, neanche mio marito, neanche mia moglie può soddisfare il bisogno di amore che ho. L'unico che può farlo è Cristo Gesù, e riconosco che Lui mi ha amato come nessun altro. L'Apostolo Paolo dice: il quale mi ha amato me e ha dato se stesso per me. L'Apostolo Paolo sapeva bene che Gesù ha dato se stesso per tutti. L'Apostolo Paolo ci ha insegnato che Gesù si è sacrificato per la salvezza della Chiesa. E qui invece la presenta come una cosa specifica, personale, di esperienza quotidiana sua, che definisce la sua vita, che definisce il proposito per il quale lui si alza la mattina e riesce ad amare i suoi nemici, ad essere torturato, imprigionato e a cantare a Dio, che riesce a sopportare il rigetto, la critica, le ingiurie, l'allontanamento di tutti. Perché? Perché è colmo dell'amore di Cristo. La mia domanda a te questa mattina è: sei colmo dell'amore di Cristo al punto tale da riuscire ad amare coloro che non sono amabili? Sei ripieno del suo amore a tal punto da benedire coloro che ti maledicono, da porgere la tua seconda guancia a chi ha colpito la tua prima? Sei disposto ad amare quella persona che vorresti lasciare perché è difettosa, perché è mancante, perché è piena di difetti e mi fa star male? Il vero amore di cui Dio ti vuole potenziare è un amore che soffre ogni cosa e non subisce questa sofferenza in una maniera che la sua vita diventa miserabile, piuttosto soffre con orgoglio la sofferenza dell'amore portando avanti il carattere di Cristo. È qui che c'è speranza per i matrimoni tra credenti, in modo particolare tra credenti. È qui che c'è speranza in un nostro linguaggio che benedice coloro che ci sono nemici, ci sono avversi, ci sono antipatici. Forse ti sono antipatico io in questo momento, perché sto urlando delle cose che sono scomode. Riesci ad amarmi? Riesci ad amarmi dell'amore di Cristo? Riesci ad amare il tuo peggior nemico? Non ti è dato di farlo nelle tue forze. Non ti è dato di farlo nella tua carne. Mirko non sa amare di questo amore. Ma l'Apostolo Paolo dice: la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Apostolo Paolo, un uomo singolo, senza moglie, che a un certo punto in una lettera addirittura tira fuori questa amarezza e dice: non avrei anch'io il diritto di portarmi con me una moglie. Poi aggiunge: io ho rinunciato a tutto, ma non perché era un miserabile, non perché era un sofferente che in maniera apatica passivamente subiva il sacrificio di servire il Signore, no. Era orgoglioso, era entusiasta, perché era mosso da cosa? Dalla fede nel Figlio di Dio, ed era mosso dall'amore che sentiva in Cristo. In 1 Giovanni al capitolo 4, vi leggo qualche verso prima e qualche verso dopo rispetto ai versi che ho letto prima. C'è scritto: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Questi versi ci stanno dicendo con chiarezza che dimorare in Dio significa godere del suo amore per noi ed essere ripieni di quell'amore che copre ogni ferita e ogni mancanza che c'è stata nella tua vita e che ci può essere oggi. Ma non solo, aggiunge anche che se noi continuiamo a perseguire l'amore di Cristo, l'amore incondizionato, l'amore di grazia, l'amore per i nemici, l'amore per coloro che non ci fanno del bene, allora noi continuiamo a dimorare in questo amore e questo amore si perfeziona in noi e noi diventiamo più simili a Cristo. Io so che sto dicendo delle cose non facili. Forse avrei dovuto predicare sulla sofferenza, sulla sottomissione e il sacrificio. Però vedete, l'amore è una cosa meravigliosa, perché lo dai quando lo hai ricevuto e lo puoi dare nella misura con la quale lo ricevi. Per questo, se manchi oggi di amore, questo messaggio non è per farti disperare, piuttosto è per darti speranza. Se non sai come perdonare, come affrontare la settimana che ti sta davanti, Questo messaggio non è per farti intraprendere questa settimana con un mea culpa e un mio non ce la posso fare, non ce la potrò mai fare. No, questo messaggio è per dirti tu puoi ogni cosa in virtù di colui che ti fortifica anche nell'amore. Tu puoi amare, tu puoi perdonare, tu puoi essere l'immagine di Cristo e ambasciatore suo su questa terra. E la mia preghiera è che nel partecipare alla cena del Signore questa mattina, nel mangiare quel pane che ci ricorda la sua carne sacrificata per noi, nel bere quel vino che ci ricorda il suo sangue versato per noi, noi possiamo percepire l'amore di Cristo per noi, riceverlo tutto e chiederlo a Lui, perché Lui ti ama come nessuno ti ha mai amato e nessuno potrà mai amarti. La mia preghiera è che tu possa fare anche quel passo successivo e nel sentirti amato, partecipando alla cena del Signore, che tu possa scegliere di amare, di chiedere scusa o di perdonare, di accettare le imperfezioni del tuo fratello, della tua sorella, di tuo marito, di tua moglie, del tuo genero, della tua genera, del tuo suocero, della tua suocera, di tuo figlio, di tua figlia, del credente, del fratello, della sorella che è qui in questa sala o che non è qui. Scegliere di essere come Cristo, di non amare per simpatia, non amare perché l'altro ti piace, ma amare perché scegli di soffrire ogni cosa. Vogliamo alzarci in piedi. Voglio benedire il tempo che ci sta davanti. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Vogliamo ringraziare Gesù per il suo sacrificio per noi, per il suo amore che copre ogni colpa e ogni peccato. E vorrei prima di tutto pregare per coloro che vogliono ricevere questo amore questa mattina. Voglio pregare per coloro che questa mattina dicono io so di essere stato ferito. Io ho bisogno di essere amato o amata. Io ho bisogno che quei vuoti interiori siano colmati, quelle ferite nell'anima possano guarire. Io voglio pregare per te che vuoi ricevere questa mattina il miglior amore, l'amore del Padre per te, l'amore di Cristo Gesù per te. Se questa mattina dici sì, io voglio ricevere questo amore, voglio fare spazio a questo amore, voglio far mio questo amore. Dovunque ti trovi in questa sala o se sei anche a casa o a Mottola in questo momento, ti chiedo di alzare la tua mano. Voglio pregare per tutti coloro che sinceramente questa mattina dicono sì, io ho bisogno dell'amore di Gesù. Grazie, grazie, vedo diverse mani che si stanno alzando. Alleluia, grazie Gesù. Grazie Gesù. Signore, tu vedi quello che io non potrei mai vedere, quello che forse tanti altri non vedono nella vita di questi tuoi figli, le ferite subite, i tradimenti, i dolori, quelle mancanze, quei vuoti storici che risalgono all'infanzia forse o al periodo dell'adolescenza. Gesù, tu vedi queste lacrime, tu vedi questi cuori, tu vedi la sofferenza e il tuo amore colma ogni cosa. E noi crediamo in questo amore. Ed è l'unica nostra speranza, perché è l'unico perfetto amore al quale possiamo ricorrere. Io prego per queste persone, per questi tuoi figli con le loro mani alzate, che questa mattina dicono: io voglio ricevere l'amore di Cristo. Io prego per i loro peccati affinché siano perdonati, e io prego affinché da questa mattina una guarigione interiore possa dare loro libertà di vivere, non in una maniera avida rincorrendo l'amore dell'uomo, ma rincorrendo l'amore tuo, sperimentando l'amore tuo pieno, quello che Paolo descrive. Io prego in questo momento, Gesù, riempi questi cuori, riempi queste vite, dai a loro abbondanza di amore e tutto il perdono e tutta la guarigione che c'è alla tua presenza. Veniamo davanti a te ora, e alla tua presenza come Chiesa noi intercediamo affinché ogni ferita nell'anima possa essere guarita in questo momento, ogni carenza di amore che possa essere colmata in questo momento. Gesù, tu sei reale, tu lo hai fatto in noi, in me, tu lo hai fatto in me, e io lo prego per tutti coloro che lo vogliono ricevere questa mattina. Dona loro questo amore, permetti a loro di camminare nell'abbondanza dell'amore che c'è in te. Lo preghiamo insieme come Chiesa nel nome prezioso di Cristo Gesù. Alleluia. Amen. Se hai alzato la tua mano, ti chiedo di ripetere con me questa preghiera. E vogliamo unirci a pregare insieme a coloro che hanno alzato la mano queste parole. Quindi chiedo a tutta la Chiesa di ripetere con me queste parole. Ripetete: Signore Gesù, voglio ricevere il tuo perdono. Voglio ricevere la tua guarigione. Voglio ricevere una nuova vita. Ora, in questo momento, vengo davanti a te. Ti ringrazio per il tuo amore. Grazie perché tu mi hai amato quando io ancora non amavo te. Grazie perché tu mi accogli. Grazie perché tu mi guidi e mi dai un nuovo inizio. Grazie Gesù. Amen. Alleluia. Rimaniamo in preghiera, rimaniamo con gli occhi chiusi, concentrati. La presenza dello Spirito Santo è qui in questo luogo per portare altre guarigioni, per portare altre vittorie. C'è un peso nel cuore di molti che è la faccia, è il nome di una persona specifica, o forse più di una. Quella persona che ti sta ferendo, che ti ha oltraggiata o oltraggiato. Quella persona che ti ha tradito, tradita, quella persona che causa in te un costante dolore. E lo puoi ammettere davanti a Dio, non c'è nulla che tu possa nascondere a Lui. Lui sa già tutto e va bene che tu possa dire a Lui quello che provi per questa persona. Forse rabbia, forse rancore, forse delusione, profonda delusione. Forse in te c'è amarezza. E tutte queste sono conseguenze di un amore non corrisposto, un amore non ricambiato, un amore violato. Il Signore questa mattina ti dice: sei qui nel posto giusto, al momento giusto, non per avere giudizio, ma per avere la grazia di poter essere libera, libero di questi sentimenti e di amare come io ho amato, di avere la potenza che io ho avuto mediante lo Spirito Santo, di perdonare coloro che mi avevano appena appeso lì, su quella croce. Io voglio pregare per coloro che vogliono lasciare l'amarezza questa mattina, vogliono lasciare la delusione, vogliono lasciare il rancore, l'odio, vogliono lasciare la forza, il potere maligno che il diavolo ha di portare malessere attraverso queste persone. Tu sei chiamato a libertà, il Signore ti ha portato in questo luogo per essere libero, per essere libera, per poter amare, perché sei amato, perché sei amata. E io chiedo anche a te il coraggio di alzare le tue mani, e voglio pregare per ogni persona che vuole lasciare amarezze, delusioni, rabbia, rancore, Signore, tu ami poter agire nelle nostre vite. Alza ora le tue mani, alzale con me, preghiamo insieme. Signore, noi vogliamo essere liberi. Tu sei morto per darci libertà. Tu sei morto affinché il maligno non trionfi in noi. E se il male viene contro, noi non vogliamo ricambiare al male ricevuto altro male. Noi non vogliamo vivere in questo vortice, in questo vincolo, in questa spirale viziosa che porta malessere in noi. Noi vogliamo essere liberi e io prego in questo momento, via l'amarezza nel nome di Cristo Gesù, via il rancore, via la vendetta, via l'odio da noi. Nel nome di Gesù lo prego. Prego libertà nei cuori, libertà di sentirsi amati e di poter amare, di poter guardare l'altro con gli occhi tuoi, Signore Gesù. Io prego in questo momento liberazione per ciascuno dei tuoi figli che si sta rendendo a te con le proprie mani alzate. Padre, confessiamo i nostri peccati a te. Non nascondiamo la nostra rabbia, non nascondiamo il nostro malessere. Non vogliamo che il diavolo abbia la meglio. Invitiamo te, Signore Gesù, e il tuo sangue a liberarci in questo momento. Se hai alzato le tue mani, ma anche se non l'hai fatto, ripeti queste parole con me. Signore Gesù, io dichiaro il mio cuore libero, in questo momento libero dall'amarezza, libero dall'odio, libero dal rancore. Signore Gesù, tu conosci la ferita che ha causato tutto questo. Guarisci tu. Continuiamo a stare alla sua presenza. C'è ancora spazio per guarigione in questo luogo, in questo incontro. Gesù vuole guarirti. Alleluia. Stai alla sua presenza, adoralo, cercalo. Lui vuole agire. Lo Spirito Santo ti dà modo di esprimerti in nuove lingue, fallo ora. Non trattenere lo Spirito. Adora il Signore con le tue parole. Fai più spazio a Lui e rigetta, allontana da te il nemico. Questo è un luogo di vittoria, questo è un luogo per la presenza di Dio, questo è un luogo di libertà, questo è un luogo di guarigione. Noi lo dichiariamo contro ogni spirito del maligno che sta guerreggiando e vuole attanagliare ancora cuori e vuole tenere ancora legate menti. Nel nome di Gesù, guarigione e libertà in questo luogo, in questo momento noi dichiariamo la Pasqua di Gesù, la liberazione del tuo popolo. Alleluia, gloria a te, gloria al tuo nome, Gesù.